Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Dove si trovava Tamara? Perché non lo aveva aspettato? Tornò a formare ripetutamente il suo numero. Poi, per calmare l'ansia, aprì un libro. Era La Santità di Levi. Il fatto è, lesse, che tutti gli angeli e gli animali sacri tremano prima del giorno del giudizio, e anche negli uomini tutte le membra del corpo paventano quel giorno. La porta si aprì e Tamara entrò nel negozio. Indossava un vestito che sembrava troppo lungo, troppo grande per lei. Sembrava pallida, sofferente. Parlò forte, con la voce rauca, astenendosi a malapena dal gridare. «Dov'eri? Ho aspettato dalle 10 alle 10:30. Avevamo un cliente. Voleva acquistare una collezione della Mishnah, ma non potevo aprire. Ti ho telefonato da Yadviga, ma non ha risposto nessuno. Potrebbe essersi uccisa!» «Tamara, io non sono più padrone di me stesso.» «Beh, ti stai scavando la fossa. Quella Masha è peggiore di te. Non si toglie il marito a una donna che si trova nelle ultime settimane di gravidanza. Bisogna essere una sgualdrina per fare una cosa simile. Masha non riesce a dominare le proprie azioni più di quanto ci riesca io. Hai sempre parlato di libero arbitrio. Ho letto il libro che hai scritto per il rabbino e, se non sbaglio, le parole libero arbitrio si incontravano ogni due frasi. Gli ho dato tutto il libero arbitrio che voleva. Finiscila! Fai apparire te stesso peggiore di quello che sei. Una donna può far impazzire un uomo. Mentre fuggivamo dai nazisti, un personaggio importante del partito sionista polacco rubò la moglie al suo migliore amico. In seguito fummo costretti tutti quanti a dormire nella stessa stanza, una trentina di persone circa, e lei ebbe la faccia tosta di giacersi con l'amante a due passi dal marito. Ormai sono morti tutti e tre. Dove ti proponi di andare? Dio ti ha dato un figlio dopo tutta questa distruzione, non ti basta? Tamara, i discorsi di questo genere sono inutili. Non posso vivere senza Masha e non ho il coraggio di uccidermi. Non hai alcuna necessità di ucciderti. Alleveremo noi il bambino. Il rabbino escogiterà qualcosa e io non sono del tutto incapace. Se vivrò, sarò una seconda madre per la creatura. Probabilmente tu non hai denaro. Non accetterò da te un solo centesimo di più. Non scappare via. Se ha aspettato per tutto questo tempo, aspetterà altri 10 minuti. Che cosa farete? Non abbiamo deciso. Il rabbino le ha offerto un impiego a Miami o in California. Anch'io troverò un lavoro. Manderò denaro per il bambino. Non è questo il problema. Potrei andare ad abitare con Yadviga, ma la casa è troppo lontana dal negozio. Forse dovrei farla venire ad abitare qui con me. Lo zio e la zia scrivono lettere entusiastiche e dubito che torneranno da Israele. Hanno già visitato tutte le tombe sante. Se mamma Rachele ha ancora un po' di ascendente su Dio, senza dubbio intercederà per loro. Dove abita la tua Masha? Te l'ho detto, a East Bronx. È stata appena derubata. Le hanno portato via tutto. New York è piena di ladri, ma per il negozio non devo preoccuparmi. Qualche giorno fa, quando ho chiuso, il mio vicino, il proprietario della merceria, mi ha domandato se non temessi ladri e io gli ho risposto di temere una sola cosa, che qualche scrittore yiddish possa introdursi qui di notte e portare dentro altri libri. Tamara, devo andare. Lascia che ti dia un bacio. Tamara, questa è la fine per me. Herman afferrò la valigia e si affrettò a uscire dalla libreria. A quell'ora i treni della sotterranea erano quasi vuoti. Discese alla sua fermata e percorse la viuzza trasversale dove abitava Masha. Aveva ancora la chiave dell'appartamento. Aprì la porta e la vide, in piedi, al centro della stanza. Sembrava essersi calmata. Tutti gli armadi erano aperti e così i cassetti del cassettone. Si sarebbe detto che nell'appartamento fosse in corso un trasloco, con tutti gli oggetti personali già nelle valigie e i mobili ancora in attesa di essere portati via. Herman notò che i ladri avevano svitato persino le lampadine. Masha chiuse a chiave la porta alle spalle di Herman, affinché i vicini non potessero entrare. Andò nella stanza di lui e sedette sulla sponda del letto. Mancavano anche il guanciale e la trapunta. Masha accese una sigaretta. «Che cosa hai detto a tua madre?» domandò Herman. «La verità.» «Che cosa ha detto?» «Sempre le solite cose, che mi sarei pentita, che tu mi pianterai e così via. Se mi abbandonerai, mi abbandonerai. Soltanto il presente conta per me. Questo furto non è un fatto di ordinaria amministrazione. Ci avverte che non dobbiamo restare qui ancora a lungo. Nella Bibbia sta scritto, nudo uscii dall'utero di mia madre e nudo vi ritornerò. Perché vi ritornerò? Noi non torniamo nell'utero di nostra madre. La terra è la madre, Masha. Sì, ma finché non torneremo ad essa, cerchiamo di vivere. Dobbiamo decidere subito dove andremo, se in California o in Florida. Possiamo viaggiare in treno o in torpedone. Il torpedone costa meno, ma impiega una settimana per arrivare in California e inoltre ci arrivi più morto che vivo. Credo che dovremmo andare a Miami. Io potrò cominciare a lavorare subito nella clinica. Inoltre, siamo fuori stagione, tutto costa la metà. Fa caldo, ma, come dice mia madre, all'inferno farà più caldo. Quando parte il torpedone, Masha? Telefonerò e me ne accerterò. Il telefono non lo hanno rubato. Hanno lasciato anche una vecchia valigia, non ci occorre altro. Nello stesso modo abbiamo vagabondato per tutta l'Europa. Anzi, io non avevo nemmeno una valigia, soltanto un pacco. Non fare quell'aria così disperata. In Florida troverai un impiego. Se non vuoi più scrivere per il rabbino, potrai insegnare. Gli anziani hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a studiare il Pentateuco o alcuni dei commentari. Sono certa che riuscirai a guadagnare almeno $40 alla settimana e con i 100 che guadagnerò io vivremo da re. Beh, allora è deciso. Del resto non mi sarei portata dietro tutta questa roba vecchia. Forse il fatto che siamo stati derubati è una benedizione mascherata. Gli occhi di Masha divennero allegri e colmi di ilarità. Il sole le splendeva sulla testa, facendole avvampare i capelli come fuoco. L'albero nel cortile, che per tutto l'inverno era rimasto coperto di neve, aveva di nuovo l'ornamento di lucide foglie. Herman lo contemplò meravigliato. Ogni inverno, grazie al persuaso che l'albero, cresciuto tra rifiuti e barattoli di latta, fosse ormai secco e morto. Il vento spezzava alcuni rami, cani randagi orinavano contro il tronco, che con il tempo sembrava diventare più sottile, più nodoso. I bambini del vicinato incidevano nella corteccia le loro iniziali, cuori e persino oscenità, ma quando veniva l'estate l'albero si copriva di fogliame, uccelli cinguettavano dentro la sua chioma fitta. L'albero aveva svolto la sua missione senza mai temere che una sega, una scure o anche soltanto i mozziconi accesi che Masha gettava fuori dalla finestra potessero por termine alla sua esistenza. «Il rabbino ha una casa anche nel Messico, per caso?» domandò Herman a Masha. «Perché nel Messico? Aspettami qui, torno subito. Prima di partire avevo portato a smacchiare alcuni vestiti miei e parte della tua biancheria alla lavanderia cinese. Mi restano ancora pochi dollari in banca e voglio prelevarli. Mi basterà mezz'ora». Masha uscì. Herman la udì chiudere a chiave la porta. Cominciò a frugare tra i propri libri e scelse un dizionario del quale avrebbe avuto bisogno se avesse continuato a lavorare per il rabbino. Trovò, in un cassetto, taccuini d'ogni genere e anche una vecchia penna stilografica della quale i ladri non si erano accorti. Lo afferrò l'impulso di telefonare a Jadwiga, ma si rese conto che sarebbe stato assurdo. Si distese sul letto nudo, dormì e sognò. Quando si svegliò, Masha non era ancora tornata. Il sole era tramontato e l'oscurità riempiva la stanza. A un tratto Herman udì rumori fuori dalla porta, passi, grida. Si sarebbe detto che stessero trascinando qualcosa di pesante. Si alzò, andò ad aprire la porta di casa. Un uomo e una donna sorreggevano tra loro Chifrapoix, in parte sostenendola, in parte trascinandola. Aveva la faccia sofferente e alterata. L'uomo gridava: «È svenuta sui rinchiusi! Lei si è scritto?» «Dov'è Masha?» domandò la donna. Herman riconobbe una delle vicine. «Non è in casa! Chiami un medico!» Herman corse giù per i pochi gradini che lo separavano da Chifrapoix. Lei lo fissò con un'espressione severa quando cercò di aiutarla. «Devo chiamare un medico?» domandò. Chiffrapois scosse la testa. Herman indietreggiò nell'appartamento. Il tassista gli consegnò la borsetta della vecchia e la borsa con la camicia da notte, che fino a quel momento lui non aveva notato. Herman pagò l'autista con il suo denaro. Portarono Chiffrapois nella camera da letto buia. Herman fece scattare l'interruttore della luce, ma i ladri avevano preso anche quelle lampadine. Il tassista domandò come mai nessuno accendesse la luce e la vicina andò a prendere una lampadina in casa sua. Chiffrapois cominciò a piagnucolare. Herman la sosteneva per il braccio e la spalla. Nel frattempo la donna tornò e avvitò la lampadina. Chiffrapois guardò il letto. «Dove sono le coperte?» domandò in un tono di voce quasi normale. «Vado a prendere un guanciale e due lenzuola», disse la vicina. «Intanto si sdrai sul letto così com'è». Herman condusse Chiffrapois fino al letto. Sentì che tremava in tutto il corpo. Lei gli si avvinghiò mentre la sollevava e poi la deponeva sul materasso. Gemette e la sua faccia parve raggrinzirsi più che mai. La donna tornò con un guanciale e le lenzuola. Dobbiamo chiamare immediatamente un fotografo. Di nuovo si udì un rumore di passi sulle scale e Masha entrò in casa. Con una mano reggeva i vestiti appesi a grucce e con l'altra un fagotto di biancheria. Prima che avesse potuto entrare nella stanza, Herman disse attraverso la porta aperta: «C'è qui tua madre!» Masha si fermò di botto. «Si è precipitata a casa di corsa, eh?» «Sta male!» Masha consegnò a Herman i vestiti e il fagotto che lui mise sul tavolo in cucina. Sentì Masha gridare irosamente con sua madre. Si rese conto che avrebbe dovuto chiamare un medico, ma non sapeva a chi rivolgersi. La vicina uscì dalla camera da letto con le mani aperte in un gesto interrogativo. Herman andò in camera sua. Udì la donna protestare con qualcuno al telefono. «Un poliziotto! Ma dove vado a pescarlo, un poliziotto? La malata può morire nel frattempo!» un medico, sta morendo!» strillò Masha. «Si è uccisa la puttana, tanto per farmi dispetto!» E Masha si lasciò sfuggire un gemito simile a quello che aveva udito al telefono poco prima, quando era andata a sentire da lei del furto. Era un suono del tutto diverso dalla sua voce, simile al miagolio di un gatto e primitivo. La faccia le si contorse. Lei si strappò i capelli, pestò i piedi, balzò verso Herman come se avesse voluto aggredirlo. La vicina si premeva sul petto il ricevitore del telefono sbalordita. Masha urlò. «È questo che volevate, nemici!» boccheggiò ansimante e si piegò in due come se fosse stata sul punto di cadere. La vicina lasciò cadere il ricevitore del telefono e agguantò Masha per le spalle. La scrollò come si cerca di dare sollievo a un bambino che sta soffocando. «Assassini!» gridava Masha. Arrivò un medico, quello che aveva curato Masha quando credeva di essere incinta, e fece un'iniezione a Chiffrapois. Poi arrivò l'autoambulanza e Masha accompagnò sua madre all'ospedale. Pochi minuti dopo, un poliziotto bussò alla porta. Herman gli disse che Chiffrapois era già stata portata all'ospedale, ma l'agente dichiarò di essere venuto per il furto. Volle sapere da Herman il nome e l'indirizzo e quali fossero i suoi rapporti con la famiglia. Herman balbettò e impallidì. Il poliziotto lo sbirciò insospettito e domandò quando era arrivato in America e se aveva la cittadinanza americana. Annotò qualcosa in un taccuino. La vicina si era ripresa il guanciale e le lenzuola. Herman si era ripresa a lasciare le telefonate per salutare, ma passarono due ore e il telefono continuò a tacere. The dark angel parachutes down into an abandoned town. He said, "Oh, I've been looking for a certain white clown. Doesn't look like you're in. You're the only one around, so I guess you'll have to do." He said. So anyway. Write your own manifesto. Thank you.